America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti a America 24 da New York, Mario Platero. Today he takes the lead 46-45 over Hillary Clinton. It's still very close, within a single point. Avete sentito, la ABC con il Washington Post ha diramato un sondaggio che attribuisce a Donald Trump il 46% del voto popolare contro il 45% di Hillary Clinton. È successo quello che non ci sarebbe mai aspettato, cioè il sorpasso sul voto popolare da parte di Donald Trump. Non ce l'aspettavamo naturalmente prima di una settimana fa. Poi c'è stato l'intervento a gamba tesa del capo dell'FBI, di James Comey, che ha diramato delle notizie, come dire, negative, che inducevano al sospetto nei confronti di Hillary Clinton, e il quadro è cambiato. La cosa, devo dire, molto triste è che Comey, secondo la maggioranza dei giuristi, ha agito al di fuori dei suoi poteri, ha peccato, come dire, di imprudenza, soprattutto alla vigilia di elezioni così importanti. Comey è un repubblicano, tutti sono concordi che l'abbia fatto più per superficialità personale che per parzialità politica, però il sospetto è inevitabile nel momento in cui un intervento di questo genere poi va a produrre dei cambiamenti così radicali. Vi do un altro esempio: appena una settimana fa Donald Trump aveva il 13%, 14% di probabilità di vincere queste elezioni, Hillary Clinton aveva l'87-88% di probabilità di vincerle. Ebbene, ieri sera, dall'ultima media dei sondaggi, queste probabilità sono state riallineate. Hillary Clinton ha il 71, qualcosa di probabilità di vincere e Donald Trump è salito quasi al 29%. Ecco, devo dire, quella di Trump è stata una rincorsa straordinaria, e adesso ci troviamo a una settimana, a 6 giorni dalle elezioni, 6 giorni per cambiare il mondo e 6 stati per cambiare l'America, perché se Donald Trump riuscirà a vincere la Florida, la Carolina del Nord, l'Ohio, l'Iowa, il Nevada e l'Arizona, questi 6 stati, beh, secondo me avrà vinto la presidenza degli Stati Uniti. Da oggi, dopo questo sondaggio, la cosa è certamente possibile, e se riuscirà, dal giorno dopo queste straordinarie elezioni americane, il mondo sarà davvero cambiato. Kelly, thank you. A report from the New York Times is shedding new light on how Donald Trump was able to avoid paying millions of dollars in taxes. Ecco, Hillary Clinton cerca di reagire, ma è molto difficile perché c'è una percezione di fondo di disonestà nei suoi confronti. E quando il capo dell'FBI esprime un parere che rafforza questa idea, è difficile sconfiggere la calunnia, soprattutto è difficile trovare delle armi davvero appuntate che possano indebolire o mettere nelle stesse difficoltà Donald Trump. Il New York Times ieri ha accusato il candidato repubblicano di aver evaso addirittura le tasse, o di averle eluse, diciamo, utilizzando degli strumenti che sono al margine della legalità e, secondo molti esperti fiscali americani, diciamo, sono addirittura illegali. Ecco, la partita a questo punto si deciderà sul filo di lana, la partita è aperta. Vi ricordo però che la Casa Bianca non si vince in base al voto popolare, ma in base al voto elettorale. Il voto elettorale è rappresentativo dei singoli stati. In questi ultimi giorni Trump ha sfruttato il vantaggio che ha avuto dall'FBI ed è riuscito ad avanzare rapidamente anche sul fronte dei singoli stati. Hillary resta in vantaggio su base statale. Ieri, dal punto di vista del conteggio tecnico, aveva intorno, a seconda dei conteggi, intorno ai 260 voti, 261 voti, per vincere ce ne vogliono 270, mentre Trump era intorno ai 210 voti, 215 voti. Andrò più nel dettaglio anche su questo tema. Vi ricordo che complessivamente i 50 stati esprimono 538 voti elettorali, e se il voto popolare ha un effetto traino, le partite davvero si giocano in ciascuno stato. Let's take a look at 3 of the most recent ones. In Florida, Trump is on the move, but if you look at North Carolina, another one of those... Ecco, facciamo degli esempi concreti. La California, lo stato più popoloso, ha 55 voti elettorali. La California è assolutamente democratica. Il Delaware e il Maine hanno invece il numero più basso di voti elettorali, soltanto 3, perché hanno una popolazione molto piccola. Ciascuno dei candidati ha degli stati sicuri, in cui vince per tradizione ora repubblicana o democratica. In questi casi le probabilità di vittoria sono spesso superiori al 90%. Prendiamo diciamo New York State, democratico, favorevole a Hillary, 99% di probabilità di vincere, portandosi a casa 29 voti elettorali. Il Texas al 99% lo vincerà Trump e ci sono in ballo 38 voti elettorali. In questo contesto gli aggregatori elettorali, per esempio RealClearPolitics.com oppure 538, hanno identificato gli stati sicuri, che sono fuori dalla partita. Secondo RealClearPolitics sono 40 e ci sono dunque 10 stati in ballo. Secondo 538 invece gli stati in ballo sono molto meno, sono forse 5 o 6. E dunque i candidati si concentrano in alcuni di questi stati. Prendiamo il Michigan, sentiamo Trump. We're way ahead in Ohio, we're way ahead in Iowa, we're doing great in North Carolina. We're winning. Trump, i risultati del voto anticipato dimostrano che siamo in avanti in Ohio, in Iowa, che stiamo facendo molto bene in Carolina del Nord. Ragazzi, stiamo vincendo. Il Michigan, attenzione, è in questo momento in campo di Hillary Clinton, ma è uno stato importante, ha un numero di voti elettorali molto interessante e dunque Trump cerca di portarlo nel suo campo. Sentiamo Hillary. Florida can decide who our next president is, which will affect the nation and the world. Ecco, qui a Dade City, in Florida, ieri, dice: mi chiedono perché continuo a tornare in Florida. La motivazione è semplice, uno stato fondamentale che può decidere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, una decisione che influenzerà il mondo intero. In effetti, la Florida è uno degli stati chiave, ve lo avevo detto in apertura, insieme al Nevada, insieme alla Carolina del Nord, all'Arizona, all'Iowa, all'Ohio. Ecco, Trump, se vincesse tutti questi stati, avrebbe 84 voti in più e potrebbe superare la soglia dei 270 voti necessari per vincere la Casa Bianca. Hillary Clinton ha bisogno oggi di appena 11-12 voti elettorali. Le basterebbe vincere la Florida, per esempio. Le basterebbe vincere la Carolina del Nord. Ma la partita è serrata. In questi giorni che mancano alle elezioni tutto potrà ancora cambiare. Sicuramente la curva in questo momento è a vantaggio di Trump e potrebbe sicuramente superare la soglia per vincere la Casa Bianca e per cambiare, come ha detto lui stesso, che vuol fare il mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più in più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, mancano 6 giorni, meno di una settimana, alle elezioni più importanti negli ultimi anni in America e dunque dei Bare Naked Ladies. Vi propongo One Week. Una settimana. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me, saying get that together, come back and see me. 3 days since the living room, I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday you'd forgiven me, but it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it, now I want to hoodwink. Does it make you stop, think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the shallot Swiss, I like the sushi, cause it's never touched a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes, speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bert Camper's got the mad hits, you try to match wits, you try to hold me but I bust through. Gonna make a break and take a fake out like a stinking ache and shake out like vanilla, it's the finest of the flavors. Gonna see the show cause then you'll know the vertigo is gonna go cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can't I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral, can't understand what I mean, well you soon will. To wear my mind on my sleeve, I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me, threw your arms in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me, I still got the red burns on both my knees. It's been 3 days since the afternoon, you realize it's not my fault, but a moment too soon. Yesterday you'd forgiven me, and now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our maisons. I hope the smoking man's in this one. Like Harrison Ford, I'm getting frantic. Like Sting, I'm tantric. Like Snickers, guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs, gonna find the kind with tiny numbers. So my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause the cartoonist got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of losing my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Dropped your eyes. friends and laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what did we do yesterday? You just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry. Watch my stadium home under the rally. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going.